All'ingegno e alla penna di Ludovico Geymonat dobbiamo i 9 volumi della storia del pensiero filosofico scientifico, nonché una vasta produzione di libri che va dal 1931 al 1991. Poco incline come sono a dar credito ai filosofi, di Geymonat mi limito ad apprezzare il ruolo di propulsore della ricerca scientifica svolto nel difficile indomani del fascismo. Soprattutto mi è sempre sembrata apprezzabile l'opera svolta con il Centro Studi Metodologici di Torino ed una certa sua particolare tenacia nel difendere quel che rimaneva difendibile del marxismo, nonostante i tentativi di coniugarlo alla belle meglio con gli elementi meno banali, diciamo così, del neopositivismo. Qualche sia il mio parere, comunque, al parere dei posteri sulla sua opera, Ludovico Geymonat si è provato a pensarci da sé. Caso peraltro non unico nel mondo accademico, allorquando vecchio e canuto ha sentito approssimarsi l'inevitabile conclusione della sua esistenza, ha ben pensato che era molto probabile che gli studiosi sì si sarebbero ricordati di lui, ma che siccome certo proprio non poteva esserlo, era meglio favorire accortamente, come si suol dire, un ampio convegno sul suo pensiero medesimo. Ecco così che, se non vado errato, nell'87 o nell'88, giù di lì, all'università milanese furono chiamati i migliori savi in circolazione perché del pensiero di Geymonat raccontassero le mirabilie. Me lo ricordo come fosse ieri, seduto e rannicchiato, che sorrideva beato e serafico mentre i cattedratici ne spandevano le lodi. È il caso di uno che, poco fidandosi della storia altrui, ha voluto provvedere finché ha potuto con la storia propria, soprattutto per ciò che lo concerneva, no? Da vecchia volpe dell'agone scientifico, sapeva che se un cattedratico svolgeva una relazione una volta, non sarebbe riuscito sicuramente a dire il contrario molto presto. Il caso di un altro eminente che provvede per tempo, a quanto riferisce un'intervista americana, è quello di Umberto Eco. Dice, infatti, di aver già scelto, di essersi scelto lui, il proprio epitaffio. L'avrebbe tratto da un'opera di Tommaso Campanella e consterebbe di un brevissimo dialogo. Una voce che dice: aspetta, aspetta. E l'altra che ribatte: non posso. Anche se io magari avrei risposto diversamente, ad aspetta, aspetta, avrei risposto cosa. Vabbè, perché a me non piace dar la vinta al primo sconosciuto che passa, vabbè, ma posso anche apprezzarne lo spirito di finezza e diciamo anche quel senso di composta malinconia che lo ispirano. Tuttavia, questa preoccupazione delle persone colte per le iscrizioni, tombali o non tombali che siano, che la riguardano, non mi sembra sinceramente né condivisibile né apprezzabile. La dice lunga sul ruolo degli intellettuali nella società che viviamo, possono avere anche un occhio rivolto ai problemi della gente di cui, cercandone il plauso, condividono il dolore, ma l'altro occhio loro, vanesio e narcisista, guarda irrimediabilmente agli affari propri, al bene che si elargisce, il pane della scienza spezzato al popolo, la necessaria guida nei momenti del bisogno, la luce delle tenebre altrui, il punto di riferimento nel passato, il ricordo da privilegiare nei secoli dei secoli. Nei giorni scorsi Simone ha preso carta e penna ed ha scritto quanto segue: muore ragazzo suicida dopo un volo di 5 piani. Mistero sul gesto. Il ragazzo soffriva da tempo di depressione per la morte dell'amico Andrea. La scuola non lo soddisfaceva e trovava sfogo solo nella fantasia. Un altro caso da archiviare, un'altra statistica di cui presto ci si dimenticherà. resta solo il dolore in famiglia e fra gli amici. Punto. Simone stava a Firenze, a casa sua, al quinto piano. Era solo in casa perché la madre, come tutte le mattine, era andata a lavorare. Simone ha finito di scrivere, ha aperto la finestra e si è buttato. Da persona normale, quale sicuramente era, Simone non si è scritto epitaffi, ma con lucida e disperata ironia ha speso una caricatura di sé per la cronaca dei giornali. Nelle sue parole c'è la consapevolezza di quel che siamo diventati e nemmeno quell'ombra di protervia che in fin dei conti il gesto che stava per compiere avrebbe ben potuto comportare, diversamente dall'intellettuale che prima ancora di vivere intriga palliativi della propria morte. Simone sa quel tanto della vita per morire e basta.